Senta. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mi piace l'odore del napalm al mattino. I'm free to do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. Come ci accorgeremo che Roma è governata dai 5 Stelle? Quando verranno affrontati e risolti i problemi dei cittadini, i principali, trasporti e rifiuti. A voglia, allora dobbiamo aspettare ancora un bel po'. Già la prima crisi è stata affrontata e Roma è più pulita oggi di come l'abbiamo trovata. La mia posizione, anche da persona che si è occupata del tema Olimpiadi, non è che siano un dramma, io ho pensato che sia molto molto opportuno rifiutare appunto e sganciarci da questo dramma. Vincenzo De Luca ha detto di lei, di Maio e Fico che siete tre mezze pippe. Vuole rispondere? Veramente ha anche aggiunto dicendo dovrebbero ammazzarli tutti. Ha anche detto questo. Comunque io non gli rispondo a De Luca. Mi sembra, alle volte se rispondo a certa gente perdo un po' tempo. Cito la sua frase, Roberto Fico, Di Battista e Di Maio, tre pippe sfaticati. Mezze pippe. Mi perdoni se dobbiamo essere corretti. Quell'altro, l'emergente lì, come si chiama, il gallo cetrone, tale Di Battista, sì. No, lo dico perché è arrivato qui in Costiera Amalfitana con Centauro, con il casco. Ha riempito le piazze. Ha riempito le piazze e chi se ne frega, ha riempito le piazze. La precisione effettivamente è una caratteristica di De Luca. Tre pippe, mezze pippe. Se proprio, Vabbè, ma De Luca, dai, ma ragazzi, si scherza anche un po', Sono le 6:31 minuti, signori. D'altronde la politica è anche un po' questa, cioè risolvono i problemi dei cittadini, discutono di cose come... Ma no, dai, è partito il solito giro dei talk show in cui si parla, si dice, si fa, si discute, ma poi... Vabbè, dai, poi dopo divento subito polemico. Non va bene, non va bene. Invece, per esempio, oggi Repubblica ha una notizia, a pagina 3. Attenzione, udite, udite, cari signori. Lo Stato, il governo pensa a una tassa di scopo. Un'altra bella tassina, una tassetta, una tassuccia. Un centesimo su ogni pacchetto di sigarette per finanziare gli studi contro il cancro. Voi fumatori, voi che avete già acceso la prima sigaretta del giorno, una forse arriva una bella tassetta di scopo. Il ministro Lorenzin la vorrebbe proprio, Allora, devo dire, c'è un ascoltatore, Giovanni, che ci scrive che la tangenziale est a Milano è completamente bloccata. Mi pare di aver capito che sia stato un tir che si è, come dire, si è bloccato. Vabbè, sentiremo nel traffico. Grazie Giovanni comunque per la segnalazione. Saluto tutti gli ascoltatori che mi scrivono al 349-238-6666. Vi ricordo che da lunedì partiremo a chiamare coloro che ci ascoltano dall'estero per una nuova iniziativa. Visto che noi qua raccontiamo le prime notizie del giorno, vi vorremmo coinvolgere. Voi dovrete raccontarci le notizie che invece campeggiano, che ne so, in Svezia, in Austria, nelle Filippine, in Giappone, a Dubai. Quindi cominci. Ecco appunto, questo sarà il nostro grido di battaglia. dal celebre Good Morning Vietnam, e voi ci invece ci direte, non so, Good Morning Svezia, se ci seguirete dalla Svezia. Ma da lunedì vi coinvolgeremo, quindi scriveteci una mail a 24mattino@radio24.it. Già ci avete scritto in tantissimi, abbiamo già una lista lunga, vi chiameremo, vi scoveremo tutti, state tranquilli. Allora, Peter Bescapè in regia, l'Alpino si sposa, signori. E Lorenzo Nespoli in redazione, siamo tutti quasi pronti. Intanto voglio salutare un graditissimo ritorno, la nostra Luisella Costamagna. Buongiorno, oh, graditissimo anche per me. Che bello, non è vero? Ti sei dovuta svegliare alle 6:30 per noi, quindi non fingere, non ma fare finta. Ma magari mi sono svegliata alle 6:30, mi sono svegliata ben prima e ho già fumato 2 sigarette. 2 centesimi? Già... Ah no, a pacchetto, scusa. Il governo Renzi. No, a pacchetto, scusa, non 1 centesimo a sigaretta, 1 centesimo a pacchetto. Quindi, lo so, 2 sigarette, alle 6:30, 2 sigarette, brava, va bene. Cioè brava, no, non lo so. Cerco di recuperare poi nella giornata. Ah, va bene, in che senso? Vado a scalare. In che senso, che aumenti o... No, cerco di andare a scalare, ridurre. Va bene, adesso ti chiederò subito di questa vera. Quindi tu sei una fumatrice. Insieme a te voglio salutare il nostro Federico Novella. Ciao Alessandro, come stai? Bene, tutto a posto. Bene. Eccolo qua. Buongiorno. Ah, attenzione, la Juve. Poco allegri, state poco allegri. Mi sono accorto adesso che la Juve ha pareggiato. Me ne sono accorto questa mattina, effettivamente. Non capita spesso, in effetti. No, infatti si spera che spesso perda anche. Ma invece immagino, ma non ti capita affatto. Abbiamo 2 gobbi, tra l'altro, ma io ho questa malattia, non ho capito, di circondarmi di gobbi in maniera inconsapevole, ma non so perché. Io... è una cosa affettuosa, ti senti a tuo agio, no? O non so se sono troppi i gobbi in giro e quindi chiunque chiami trovi un gobbo, oppure... Sei circondato. Siamo la vera nazionale. Che miseria, accidenti. Va bene. Dai, allora, dobbiamo andare ad aprire il Parlamento? Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento, abbiamo... Allora, ma ci sono tante notizie in realtà, anche di cronaca, sapete, di questa tragedia, di questa donna che si è tolta la vita... Poi ne parliamo, però insomma, se vogliamo buttarla in politica, le notizie sono sempre quelle. Dai, Luisella, di quello che vuoi, tanto la politica è di una noia mortale. Dai, dimmi, c'è. No, qui è un l'ambasciatore Philips, dai, di quello che è l'ambasciatore Philips. No, vabbè, torni davvero dalle vacanze e trovi quello che non ti aspetti. Vabbè, sul Philips, dopo Confindustria, Goldman Sachs, agenzie di rating, Marchionne, ci mancava solo più lui, ormai tutti evocano l'apocalisse se vince il no, manca il Papa, Biancaneve i 7 nani, verranno evocate le piaghe d'Egitto, la moria delle vacche, l'invasione delle cavallette. Mamma mia, ma perché in Italia siamo così? Ma che noia! Ma se vince il no, purtroppo, non succederà assolutamente nulla. Come la Brexit, ci saranno i barbari e gli unni, per carità, non è che le cose non abbiano delle conseguenze, ci sono delle conseguenze. Ma non ci sarà l'apocalisse, che non c'è la vita. No, l'apocalisse no. So. Tra l'altro, con una postilla, se si sparge davvero la voce che il referendum bisogna votare sì, non perché riteniamo che la riforma sia buona, ma perché lo dice il governo degli Stati Uniti, i grandi gruppi finanziari e le agenzie di rating, questo creerà un effetto boomerang. Voteranno no. Ma chiaro. I fautori del sì fanno fatica a spiegare perché bisogna votare sì, perché la riforma è buona, perché nel merito non si può dire che lo sia, quindi inevitabilmente hanno bisogno di testimonial e di sponsor che appunto evocano scenari di aumento della disoccupazione, addio agli investimenti. Il merito della riforma lo spiega purtroppo il comitato del no, è un'immagine devastante, diciamo. Va bene, ma dai, ma tanto del referendum ci sarà tempo di parlare. Non sappiamo ancora quando si voterà. Ma infatti, non sappiamo manco quando si voterà. Sarà come l'abolizione delle province. Chissà. Il problema del comitato del sì è che ancora oggi il referendum è agganciato al governo. Sì. Quindi io se chiedi in giro, più il governo commette degli errori e più la gente è spinta a dire beh, forse è il caso di votare no allora. Cioè ancora un referendum sentito come politico, capito? Ma è un referendum inevitabilmente sul governo, lo è, nonostante adesso ci cerchi di cambiare questa cosa. Però dai, da fumatrice Luisella Costamagna ha già fumato due sigarette. No, questa interessa a tutti gli italiani. Vedi che stanno arrivando già messaggi. Io, un'ascoltatrice, dice: da fumatrice sarei disponibile a contribuire con un centesima sigaretta sulla ricerca sul cancro. Tu Federico fumi? No, io no. Ho altri vizi. E quindi ha maggior ragione, dice. Non vogliamo conoscere. No, infatti, non voglio conoscere i vizi. Fai una puntata. O le virtù di Federico Novella. Sì, guarda, cioè i vizi di massima sono, cioè, mi sembra una buona idea, però ricordiamoci anche che il fumo è una dipendenza e quindi era anche, come dire, fare in modo che questa dipendenza venga meno. È come se, non lo so, è come se per combattere la droga tassiamo i drogati, la stessa cosa, no? Però in questo caso sarebbe una tassa di scopo, cioè verrebbe proprio utilizzata per le cure anticancro. Luisella ci crede molto. Luisella ci crede proprio, un fondo che nessuno. Fosse una tassa di scopo, uno potrebbe anche valutarla, dopodiché con i problemi che ha il governo a raccogliere soldi per la manovra che dovrà fare adesso, la legge di bilancio, infatti il titolo di Repubblica in realtà taglia la sanità per 1,5 miliardi, quindi bisogna trovare cioè, soldi. Tu dici altro che scopo, quelli si prendono i ma soldi. Ma l'aumento delle sigarette è uno dei passaggi obbligati insieme all'aumento del carburante, adesso c'è tutte le clausole di salvaguardia che dovranno essere disinnescate, servono 27 miliardi e quindi dici curiamo il cancro, voglio vederli sti soldi, se poi vanno a finire nelle cure anticancro e per finanziare. Vedi però l'italiano è scettico per principio. Ma giustamente, abbiamo preso tante di quelle fregature in passato che dici. Guarda caso adesso compare che bisogna tassare le sigarette, che è davvero uno dei passaggi con cui tutti i governi hanno raccolto soldi, quindi i fumatori hai voglia, avessero fatto degli incentivi, usato i soldi per curare il cancro, l'avremmo debellato in tutti questi anni, invece ci hanno solo ciucciato soldi oltre che salute, vabbè, ma quella è una scelta. Ma in generale non esistono le tasse di scopo, o meglio ogni tassa ha lo stesso scopo, che è quello di rastrellare quattrini, poi la chiamano tassa di scopo. È un grande scopo, è un grande unico scopo. La chiamano tassa di scopo, diteci quanti soldi vi servono, tiriamo fuori il portafoglio e vediamo. Allora te lo dico subito, sono esattamente 700 milioni si cercano da questa era. Fateci la fattura e vediamo 700 milioni. E la metà l'Italia, la sanità. Ecco, va bene. Abbiamo disintegrato questa proposta del ministro Lorenzin. Sono già le 6:41 minuti, la gente neanche si è svegliata. La proposta che vedrete su Repubblica, pagina 3, è stata bocciata dal 100% dei nostri ospiti qui a Radio 24. Basta, passiamo oltre. La Lorenzin ha a che fare la prossima settimana, c'è il fertilizzante Dei, che è un altro dei suoi capolavori. Ma ancora, no? l'hanno tenuto. Che ne pensi? Certo. Che ne pensi? Tutto il peggio possibile, l'hai scritto. Gli ho scritto una bella letterina sul fatto. È una cosa vergognosa, anche perché al di là degli spot, quelle cose sull'età, la fertilità, poi se uno va a leggersi il testo del Ministero della Salute è ancora peggio. Ma dai, quindi... si è pentita. Si è resa conto che la campagna è stata sbagliata. Sì. Toni sbagliati, ma idea di fondo anche, cioè, voglio dire, secondo me idea di fondo anche abbastanza ineccepibile, no? Toni sbagliati, però dire che bisogna fare figli non è neanche un... Non è sbagliato, sì, ma da, un, da un ministro non ho bisogno che mi dica di fare figli, ho bisogno che mi permetta di farli, quindi mi faccia asilo nido. La parola asilo nido nel documento del Ministero della Salute non viene mai neanche citato. No, ma è chiaro, no, ma è chiaro che il tema cioè... in Italia, quello della denatalità, è importante, però effettivamente cioè, non puoi prenderla dal... Dai, forza, su, facciamo dei figli, che bello! È come Maria Antonietta, non avete pane, mangiate brioche, quindi non avete il lavoro, fate figli, figliate, sì, ma... hai voglia, quale immediato ci sarebbero, dipende, se solo ci fosse lavoro e soldi. Secondo me dipende da come ti pone. Se dici ministro è sbagliato, perché avresti dovuto dire fate figli e vi do a disposizione queste risorse, asili nido eccetera. Però c'è stato anche qualcuno che ha detto no, non va bene dire che le donne devono fare figli perché le donne devono essere indipendenti, perché no, secondo me se vogliamo dare un futuro al nostro paese, ogni tanto delle politiche, cioè il concetto di dover dare figli deve essere accettato. Giustamente dici delle Detto politiche, questo, cioè la campagna era maldestra. Esatto, perché le politiche devono essere omnicomprensive, cioè dire vi diamo un bel welfare, tutte le garanzie, che fare figli conviene anche economicamente, non è un salasso, eccetera, e allora poi ti dico, vedete che bello, c'è tutto a disposizione, fate figli. Adesso non avete più ostacoli. Ecco, non avete più ostacoli. E infatti Federico ne ha fatti tre, peraltro, a Luisella qua, cioè, stai parlando con uno che ha fatto tre figli e non si ferma, non dico altro, e non si ferma. No, scherzo, non diciamo queste cose, buttate lì. D'altronde non fumo, dovrò pur riempire i miei spazi, in qualche modo. Certo, mi sembra sì. Allora, so che alle 6.44 è l'orario in cui non potete fare a meno di un grande amico, Massimo D'Alema, da ascoltare anche oggi, cara Luisella, lo so che ti fa piacere, era ieri credo da Lilli Gruber. L'hai visto. Mitico D'Alema. Ma allora questi libri di D'Alema che Renzi insinua non ha scritto lui, vediamo un po', ma chi li ha scritti? D'Alema. Io diciamo ho pubblicato non so se 9-10 libri, in qualche caso mi sono fatto aiutare, nel senso che diciamo io parlavo e altri mettevano in uno stile più preciso nei momenti di maggiore impegno, con una differenza rispetto ad altri autori, che nei casi in cui mi sono fatto aiutare l'ho scritto nel libro. Non vi trovo nulla di scandaloso, sinceramente. È scritto, queste battute sono veramente abbastanza infelici. Eccolo lì, dai, Federico. Dice che è come libri di Totti, delle barzellette, gliele scrive qualcuno. Pesante questa. Totti non l'ho sentita come parola in questa formulazione dalla Gruber, però insomma ci sta. Il concetto è tirato un po' per i capelli. D'Alema alle 6.44 è una fucilata nei maroni. Ma Tonio, ma come si esprime il nostro ascoltatore? Ma cosa si dice a quest'ora? Va bene. Io devo dare le informazioni sul traffico, poi vogliamo parlare del caso con cui aprono ancora tutti i giornali di questa vicenda terribile, perché c'è una donna che si è tolta la vita, ma che coinvolge un po' noi, il rapporto anche con il sesso, il voyeurismo, i social, la rete. Ne parliamo tra poco. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. Milan, sei numero uno. Quando non ci sei tu, io cambio. Quella povera ragazza violentata per tutti quegli anni. Quanto siete ignoranti e meschini. Sia buono, è davvero che l'editto bulgherino comanda, però addirittura uno che sbaglia una città, una regione, un continente, sembra che ha rubato per 20 anni, sia buono. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Se devo dire qualcosa alla Raggi la telefono, ma sicuramente alla sindaco Raggi la telefonerò. Ragazzi, Di Maio, la telefono. Si scendile il cane che lo pisci anche se della Raggi. Anzi no, è Frongia che c'ha i cani Weimaraner. Allora, Di Maio, ci sono dei momenti in cui qualunque cosa fai, ti giri, butti giù un bicchiere e lo rompi, ti metti un dito nel naso e c'è un fotografo. E insomma, Pinochet in Venezuela. E la Raggi la telefonerò. Non so, Federico Novella, Luisella Costamagna, non, 5 giorni di break, ma di time out. Una settimana, dai Di Maio, è un momento in cui quello che fai ti si ritorce. Devi trovare se stessi, sai, quando bisogna fermarsi un po', no? Va bene, anch'io lo telefonerò anche a Di Maio qualche volta. Posso dire una cosa? Come no, ma certo, tutto no, quello che vuoi. Dico che al di là del merito, che ovviamente le gaffe, insomma, in questo periodo davvero stanno succedendo di tutti i colori al Movimento 5 Stelle, diciamo che fin dall'inizio c'è stato un accanimento, una ricerca del grillino, eccetera. Ho visto errori madornali, ieri li citavo perché dopo aver letto La Maca di Michele Serra sono andata a riprendere cosa scrisse Luca Lotti, niente meno che sottosegretario alla presidenza del Consiglio sull'unità a proposito. Scrisse che nel 1946 la seconda guerra mondiale non era ancora finita, tra Falcioni, Renzi, vogliamo ricordare Borges, non mi sembra, si prendono, ovviamente si sottolineano tutte le gaffe, diciamo che nei confronti dei grillini qualunque cosa, ci sono fette di redazione preposte alla ricerca della gaffe quotidiana. Su questo è vero, però di come dire è un momento in cui come la fai la sbagli e allora insomma stai l'agitazione. Allora, no, ci sono queste due cose di cronaca. La prima, non so se riusciamo a trattare la vicenda di Di Canio. Di Canio, lo conosci Di Canio, cara Luisella? Sì, lo conosco Di Canio. Lo conosci, tu Federico lo conosci, certo, Di Canio. Grande, si è scoperto adesso, dopo che in passato aveva fatto il saluto romano sotto la curva della Lazio, dopo che già in passato era stato chiacchierato per le sue, come dire, idee sicuramente di destra, ecco, mettiamola così, sicuramente di destra, questo non l'ha mai. Adesso, siccome si è mostrato con un tatuaggio Dux, cioè un tatuaggio, ma ce l'ha da tanti anni, Sky ha deciso di interrompere il rapporto. Non lavora più a Sky. Insomma, se ne sono accorti un po' tardi che ha questo tatuaggio. No? Ma poi, sai, dovesse fare analisi politiche, note politiche, oppure retrospettive storiche, deve parlare di calcio. Penso che il tatuaggio. Diciamo che magari mettersi una camicia avrebbe. Ho capito, ma. Però lì c'è sempre il solito discorso: perché la falce e martello sì, e perché Dux no. No, il problema è che la falce e martello no, però dopodiché, insomma, si sapeva. Oppure mi ricordo che disse boia chi molla, insomma, c'è una grande ipocrisia anche in questo, voglio dire. Vabbè, dai, comunque dicono le peggio cose. Avevamo un presidente del consiglio che diceva che andare al confine era una vacanza, insomma, passava normalmente, se la si prende con Di Canio. Vabbè, dai, però voglio sapere questa cosa, di questa vicenda, di questa donna Tiziana Cantone, che ha fatto una scelta libera di mostrarsi in un video, credo vari video, a contenuto sessuale, è molto esplicito, e poi però non ha retto al fatto che questo video sia andato in giro con una viralità, come si suol dire, cioè condiviso, era stata presa in giro, erano nate delle parodie, eccetera. Ora, su tutti i giornali oggi c'è un processo a chi dice alla rete, a noi come esseri umani. Non so, io, Luisella, tu ti sei fatto un'idea di tutta questa vicenda. Ha detto che secondo me andare a giudicare la scelta per cui uno faccia delle cose, insomma, siamo liberi, ognuno può fare quello che vuole. Lei ha scelto di girare il video, ma non ha scelto di diffonderlo. Questo no, sicuramente. Però, Luisella, tu da donna che dici di questa vicenda? No, vabbè, la storia è assolutamente devastante. Cioè, questa ragazza comunque poi si è suicidata. È chiaro, quindi, questa è la cosa ci deve essere rispetto e tutela. Dopodiché, insomma, ho visto parodie, tra l'altro ci sono anche dei mea culpa espliciti di giornali online. Ma sì, per esempio il Fatto Quotidiano, Peter Gomez ha fatto un gesto, ha chiesto scusa. Quotidiano, perché poi ci fu anche una causa per la diffusione, però Dopodiché io sulla rete è così, cioè effettivamente abbiamo visto da insulti, istigazioni davvero al suicidio, non è il primo caso in cui la rete diventa feroce. E su questo è inevitabile prendere le distanze, la tutela però della libertà sono insomma i danni conseguenti di un'esplicita libertà. Io non amo le censure, non le ho mai amate nella rete. No, perché sai, c'è già chi racconta Repubblica. Susanna, ho visto dei messaggi allucinanti di gente sì. che tieni, ti sta bene. O cose. Vabbè, ma quelli tipo. sono i disgraziati. È la prevalenza del cretino, in questo caso cretino è poco. Quindi... Ci sono già, però c'è chi dice, e vorrei chiudere con questo Federico, sì. che anche dovrebbero essere puniti gli adulti che commettono, cioè non solo gli adolescenti che magari fanno che diciamo fanno questi video però insomma lì però rischiamo punirli, di arrivare esatto, come fai a punirli? Come fai? Cioè la rete è una giungla, l'abbiamo sempre saputo, adesso lo scopriamo ancora di più. È un'arena dove ci sono i barbari che fanno le loro scorribande, evidentemente. Però, veramente, se tu metti delle regole, come fai? Rischi di passare nel problema opposto, cioè rischi di militarizzarla, non è possibile. Sì, però esiste quello che si chiama cyberbullismo anche per adulti, cioè perseguitare, prendere in giro. Esiste perché secondo me molti adulti regrediscono quando vanno in rete. Molti adulti regrediscono e danno il peggio di sé. E non lo so, leggo tante analisi sociologiche su questo fatto qua. Forse come dire, le nuove generazioni hanno perso anche un po', se vuoi, il valore della riservatezza, quindi sì. il fatto di dover condividere qualsiasi cosa a tutti i costi con la massima leggerezza è un segno di questi tempi, evidentemente. Forse i giovani andrebbero educati a usare uno strumento così difficile come la rete. Non chiedermi come, però forse un'educazione servirebbe. Beh, ma servirebbe sicuramente. I metodi ci sono. Intanto io mi devo fermare qui, vi ringrazio. Luisella Costamagna, grazie. E Federico Novella, conduttore del TG4 ogni sera alle 19. Grazie, alla prossima. Se devo dire qualcosa alla Raggi la telefono, ma se alla sindaco Raggi la telefono. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 7:20 minuti in questo giovedì. Cari ascoltatori, siamo pronti alla lettura dei giornali. Oggi hai scelto libro, Peter. Com'è? Ma scrivimi. Dettagli di storia Milano da vedere. Il fotografo alpino Peter Bescapè. Oggi esce il tuo libro, bravo. E allora eccoci qua in questo giovedì 15 settembre. Dai che andiamo nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E allora eccoci coi titoli. Intanto l'apertura del Sole 24 Ore sul cambio al vertice di Monte Paschi. Tononi si dimette, Morelli nominato CEO. Questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera la frase di Mattarella che in qualche modo replica dopo le polemiche sull'ambasciatore Phillips e il referendum. Sul referendum la sovranità è degli elettori. Questo è il titolo di prima pagina. L'apertura di Repubblica, invece, la vedremo tra poco, contiene una notizia: stretta sulla sanità, tagli per 1,5 miliardi, spunta la tassa sul fumo. Cari amici fumatori e non, tra poco vi spiegherò tutto. E poi gogna sul web, la legge beffa, è il titolo del Messaggero, ancora la vicenda di questa donna di 31 anni che si è tolta la vita per un video hard. Su internet, donna suicida, follia web è il titolo del giorno. Per la stampa invece c'è un'intervista al garante della privacy, impossibile fermare i ricatti web, questo è il titolo. Mentre l'apertura del giornale è una foto dal commissariato di polizia di Ventimiglia con 2, 4, 6, 8